Mezzogiorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. La storica visita di Obama a Hiroshima. Piangiamo per i caduti e lottiamo per un mondo senza bomba atomica. Protesta di scuole, presidi e genitori per il mega ponte. Tra 2 giugno ed elezioni la scuola si ferma troppo a lungo. Migranti, sistema di accoglienza in crisi, 4.000 arrivi. Solo nelle ultime ore il Viminale scrive ai prefetti perché trovino nuovi posti. Amministrative, lo scontro si sposta su Roma, Renzi sarà alla manifestazione di Giachetti. Raggi dice scandaloso. La vigilia della finale di Champions League, a Milano si gioca a calcio al Castello Sforzesco e in altre zone della città. Il Giro d'Italia passa dalla Francia ed è scontro sulla mascotte. Il lupo non è gradito, oltre Alpe, e vogliono bloccare il pupazzo al confine. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo, il 349-238-6666, il numero per contattarci sia via SMS che su WhatsApp, e poi c'è la nostra mappa che abbiamo attivato da qualche giorno per il nostro consueto giro per l'Italia che parte, come sempre, a partire dalle 13:15. Iniziamo andando in Giappone. Some 60 million people would die. Men. La voce che sentite e che avrete riconosciuto è quella del presidente americano Barack Obama, che ha fatto una storica visita a Hiroshima. Ci aggiorna in diretta dal Giappone Stefano Carrera. Stefano, buongiorno. Buongiorno, sì, sono qui al Parco della Pace di Hiroshima. Si è appena conclusa poco fa la storica visita di Obama, che ha deposto una corona di fiori al cenotafio delle vittime dell'atomica. Ma oggi direi che l'immagine più forte, più commovente, almeno personalmente, è visiva. Il presidente Obama che sorregge un anzianissimo hibakusha, uno dei sopravvissuti alla bomba atomica sganciata su decisione del suo predecessore Truman, che provocò 140.000 morti. E quel giorno la morte cadde dal cielo, il mondo cambiò, l'umanità scoprì che aveva i mezzi per autodistruggersi, ha detto Obama, che ha visitato anche il Museo della Pace. Nel registro del museo ha scritto: troviamo insieme il coraggio di diffondere la pace e di realizzare un mondo senza armi nucleari. Certo, non si è scusato formalmente, ma neanche i giapponesi gliel'avevano chiesto, e questo per non suscitare polemiche in patria. A voi la linea. Ti ringrazio, grazie Stefano Carrer per questo bel racconto da Hiroshima. Noi cambiamo argomento e ci spostiamo all'Italia, dove sta salendo la protesta per il megaponte. Troppi ponti a scuola, ma soprattutto alcuni troppo lunghi, e questo fa arrabbiare professori e presidi. Sono pochi infatti i giorni di lezione ancora disponibili, e con l'ultimo maxi ponte in vista, quello che va da giovedì 2 giugno a martedì 7, tra festa della Repubblica, weekend ed elezioni amministrative, anche se con piccole varianti come previsto dall'autonomia scolastica, molti alunni resteranno a casa. I ballottaggi delle amministrative saranno poi il 19 giugno, proprio a ridosso dell'esame di maturità che inizia il 22. Insomma, un vero sgambetto alla didattica. Per i presidi questo maxi ponte è semplicemente un disastro, e molti si chiedono se ha ancora senso far votare nelle scuole. Mario Rusconi, vicepresidente dell'Associazione Nazionale Presidi. Noi da anni proponiamo soluzioni alternative, che sono: utilizziamo soprattutto le università, le caserme, perché no, se sono disponibili le parrocchie, utilizziamo altri luoghi pubblici senza interrompere il loro servizio, ma c'è una legge che prevede che perché un anno scolastico di uno studente sia valido deve aver frequentato questo studente almeno 200 giorni di scuola. In questo modo rischiamo di non adempiere ad un obbligo di legge. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alla situazione dei migranti. La situazione è in piena emergenza e gli sbarchi sono continui in questa nuova giornata di soccorsi. Nel canale di Sicilia la Guardia Costiera sta coordinando 13 nuove operazioni su 12 gommoni e un barcone. La nave Vega della Marina Militare ha invece soccorso 2 gommoni con a bordo 256 migranti. Mentre arriveranno molto probabilmente questa sera a Pozzallo in Sicilia i migranti che vengono soccorsi in queste ore a sud di Malta, come ci spiegano dalla Capitaneria di Porto. Noi abbiamo quest'ultima informazione. Questi dovrebbero arrivare o nella serata di oggi o nella mattinata di domani, con a bordo circa 400 migranti che sono stati trasbordati a sud di Malta. La situazione dunque è grave e molti centri di accoglienza sul territorio nazionale sono al collasso. Basti pensare che ieri la Capitaneria di Porto ha lavorato su 22 operazioni, portando in salvo più di 4.000 persone. I due naufragi avvenuti mercoledì e ieri, nei quali alla fine avrebbero perso la vita decine di persone, non fermano chi è pronto a imbarcarsi in Libia con ogni mezzo. Per questo oggi la Gran Bretagna ha comunicato d'essere pronta a inviare un'altra nave da guerra nel Mediterraneo per aiutare la Libia nella lotta contro i trafficanti. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sul fronte italiano la Lega chiede un incontro a Renzi per presentare le sue proposte, ma di immigrazione e di migrazione si è parlato anche al G7. Il documento finale del G7 giapponese accoglie l'appello lanciato dall'Unione Europea ai partner, attestando che i migranti e i rifugiati sono una sfida globale, che richiede quindi anche una risposta globale. Per questo, si legge nel comunicato finale, bisogna aumentare l'assistenza globale per sostenere le esigenze dei rifugiati, delle comunità che li ospitano e cooperare con i partner, specialmente quelli in Africa e Medio Oriente e nei paesi confinanti di origine e transito. Per quanto riguarda l'Italia, secondo il Premier Matteo Renzi, non siamo in una situazione di emergenza. Renzi tuttavia spinge perché il Migration Compact arrivi a una fase di concretizzazione. Bene la fase di condivisione, aspettiamo di passare alla fase della concretizzazione. Noi siamo convinti che da qui al prossimo Consiglio europeo, che è ormai distante non più di un mese, speriamo di poter vedere non soltanto il tema all'ordine del giorno del Consiglio europeo, ma qualche segnale concreto dell'Unione. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo ai dati economici diffusi stamattina, mentre torna a parlare il presidente di Confindustria, Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dati economici diffusi dall'Istat relativi alla fiducia di consumatori e imprese, in diminuzione allora a maggio quella delle famiglie, con l'indice che si ferma a 112,7 punti da 114,1 del mese precedente, è il livello più basso da agosto dello scorso anno. Per le imprese invece l'indice aumenta a 103,4 da 102,7. Più in dettaglio, nella manifattura peggiorano i giudizi sugli ordini, mentre le attese sulla produzione rimangono stabili. In generale, Simone, sono dati questi che confermano l'incertezza che si ha nei confronti della nostra economia, che, come ha detto ieri il neo presidente di Confindustria Boccia, è senza dubbio ripartita ma non è in ripresa. Oggi il leader degli industriali è tornato sul tema dei contratti e si è detto convinto che il meccanismo virtuoso salario produttività si possa creare anche in Italia. Vorremmo fare in modo, ha aggiunto Boccia, che le relazioni industriali diventino un fattore di competitività del paese. Quindi il tema delle riforme, il dibattito su chi sta con chi o contro chi non ci appartiene, spiega il presidente di Confindustria, non ragioniamo per colori, approfondiremo e se saremo convinti appoggeremo le riforme o no in funzione delle idee che ci faremo. È tutto, linea allo studio. E grazie Vincenzo Miglietta. Il referendum costituzionale, così come le amministrative, restano al centro del dibattito politico. Elisabetta Fiorito, ciao, buongiorno. Sì, buongiorno. L'Italicum non si discute, da certezza chi arriva prima di governare. Il premier Matteo Renzi risponde dal Giappone alla minoranza Dem che gli chiedeva di cambiare la legge elettorale perché il combinato disposto con le riforme costituzionali potrebbe dare troppo potere all'esecutivo, ma Renzi non ci pensa proprio. L'Italico elimina il rischio di inciuci permanenti, dice il premier, e a Roma gli risponde Roberto Speranza della minoranza interna: conosciamo la posizione del premier ma continueremo a chiedere modifiche a questa legge elettorale sbagliata. Con l'Italicum, continua Speranza, si eleggerebbe un numero di parlamentari nominati, visto che 2/3 dei deputati sarebbero eletti come capilista bloccati. C'è poi il fronte delle amministrative e Renzi cambia passo nella capitale, decide di chiudere la campagna elettorale il 1 giugno con il candidato Dem Roberto Giachetti in un teatro romano. Interviene la candidata 5 Stelle Virginia Raggi, che definisce l'evento scandaloso perché Renzi deve essere imparziale. Il presidente del Consiglio, questa è la tesi di Raggi, l'ha giurato sulla Costituzione. A te Simone. Grazie Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. La cronaca ci porta al processo Iara, dove sta parlando la difesa. Anna Marino, buongiorno. Sì, buongiorno a te Simone, buongiorno agli ascoltatori. È il turno oggi, come dicevi, dei difensori del muratore di Mapello accusato dell'omicidio di Iara Gambirasio. Claudio Salvagni e Paolo Camporini subito hanno sottolineato come il loro primo pensiero vada alla vittima di un delitto efferato, terribile, e alla sua famiglia. Prima ancora che da avvocati hanno detto: ci siamo convinti da padri che la persona che andavamo a difendere non è un assassino. Salvagni ha parlato di delitto che ha iniettato veleno nei muscoli di Bergamo e ci ha tutti sconvolti, e si è addentrato nella difesa, come dicevi, ancora in corso, punto per punto, nei punti considerati deboli e contraddittori dell'indagine, a partire dagli elementi raccolti intorno al ritrovamento del cadavere. Ha affermato: questo processo è fondato sul nulla. Sul DNA, infatti, considerato la prova regina da parte dell'accusa, la difesa ha sottolineato che non ha mai potuto interloquire sul lavoro fatto da altri, non può esserci chiesto un atto di fede. Per cui Salvagni ha concluso: il processo è una tortura per Bossetti. Per lui il PM Letizia Ruggeri aveva chiesto la condanna all'ergastolo con 6 mesi di isolamento diurno. In aula è presente la moglie Marita Comi, arrivata su una Porsche guidata da un consulente di parte. Assente la madre Esther Arzuffi, nonostante avesse chiesto di essere presente per assistere all'udienza con un posto tra il pubblico. Non è escluso che anche Bossetti prenda la parola e renda delle dichiarazioni spontanee prima che i giudici della Corte d'Assise di Bergamo si riuniscano in Camera di Consiglio per emettere la sentenza, cosa che potrebbe accadere il 10 giugno prossimo. E per ora è tutto. Grazie Anna Marino per questo aggiornamento. Abbiamo la cinquina del premio Campiello, Alessandra Tedesco. Ciao, buongiorno. Chi sono? Allora lo diciamo subito: questa mattina all'Università di Padova è stata veramente una scelta combattuta quella della giuria dei letterati. Lo ricordiamo, sono personaggi del mondo della cultura che scelgono appunto i 5 finalisti. Quest'anno fra le new entry dei giurati c'erano per esempio Roberto Vecchioni e Stefano Zecchi. Allora, ci sono volute ben 7 votazioni e 2 ballottaggi per arrivare a questa cinquina. Vuol dire che la giuria non era compatta sui nominativi. Allora, chi è che è passato in cinquina? Elisabetta Rasì con Le regole del fuoco, Rizzoli. Alessandro Bertante con Gli ultimi ragazzi del secolo, Giunti. Simona Vinci, Le prime verità, pubblicato da Einaudi. Luca Doninelli, Le cose semplici, Bompiani. Andrea Tarabbia, Il giardino delle mosche, Ponte alle Grazie. Come dicevo, la giuria è apparsa abbastanza, diciamo, compatta sui nomi di Rasì, Vinci e Bertante, ma invece c'è stato un ballottaggio finale fra Andrea Tarabbia e Filippo Tuena, l'ha spuntato Tarabbia. Ora la parola passa alla giuria popolare dei 300 lettori, che dovrà scegliere, come dire, il vincitore finale del Super Campiello, vincitore che sarà proclamato a settembre, la prima settimana di settembre, a Venezia. E qui da Padova è tutto. Ti ringrazio, grazie Alessandra Tedesco. Da Padova ci spostiamo a Milano, che si prepara alla finale di Champions. Prima di parlare del lato sportivo, andiamo su quello un po' più di colore della città. Emiliano Mariotti in giro per la città. Emiliano, dove sei? Eccoci. Sì, mi trovo qui nel cortile del Castello Sforzesco, una location veramente d'eccezione per giocare a calcio. I fortunati sono alcuni dei migliori under 16 del mondo che in questo momento si stanno sfidando sotto il sole milanese in uno dei tanti eventi del Champions Festival. In questo istante è in corso la partita tra Giappone e Brasile, ma ci sono anche le rappresentanze di Stati Uniti, Svizzera e una anche composta da italiani. Sono ragazzi di San Giuliano Milanese, alle porte di Milano. Ecco cosa ci hanno detto prima dell'inizio del torneo. È un'occasione abbastanza unica, diciamo. È una fortuna essere capitato in questo evento e essere arrivato fino a qua. È un'emozione che non tutti possono venire qua a giocare. È spettacolare giocare qua. L'obiettivo è divertirci, giocare. Esatto. Cercando sempre con l'impegno, però soprattutto il divertimento. E provare a vincere. Girone all'italiana, poi la finale tra le prime due. Questo è il programma del torneo Young Champions, che nel pomeriggio poi lascerà il posto alla partita dei grandi ex, campioni del passato di Milan e Inter contro il resto del mondo. Trezeguet, Inzaghi, Cannavaro, Cafu, solo per citarne alcuni. E dal Castello Sforzesco è tutto, vi restituisco la linea. Ti ringrazio, grazie dunque ad Emiliano Mariotti per essere stato con noi. Passiamo al lato sportivo, perché sta parlando in questi minuti Diego Simeone per l'Atletico Madrid, e c'è Dario Ricci che sta, credo, seguendo la conferenza stampa. Dario, eccoci. Eccoci Simone, la conferenza stampa finita da qualche minuto. Diego Simeone, tecnico dell'Atletico Madrid, ma nel cuore di tutti gli interisti, che con loro sperano che un giorno Simeone torni in nerazzurro, però questa volta sulla panchina. Sì, staremo a vedere, ma intanto la storia si fa domani con l'Atletico, che cerca di riscattare quella che è stata la bruciante sconfitta nella finale di appena 2 anni fa a Lisbona. Più, come sempre in queste occasioni, Simone, in queste conferenze stampa, più delle parole, che spesso suonano banali, conta quasi il body language dei protagonisti, no? Ebbene, ti confesso, ho visto un Simeone molto deciso, molto sicuro della partita che ha in mente, molto fiducioso in quelli che sono i suoi ragazzi, vogliosi di riscatto e quasi di vendetta. Questa sera alle 18.45 alla conferenza stampa dell'altro grande protagonista, Zinedine Zidane, che ha fatto sostanzialmente un miracolo essendo diventato allenatore nel giro di pochi mesi, sedendo sulla panchina più scottante al mondo, e poi domani finalmente parlerà il campo. Per il momento da San Siro è tutto. Ti ringrazio, grazie al nostro Dario Ricci. Allora, nei giorni scorsi nel nostro giro per l'Italia vi abbiamo parlato dei problemi delle nutrie in Veneto, dei problemi per i cinghiali che ci sono a Genova. Ebbene, i francesi invece a quanto pare hanno un problema con i lupi, e adesso che il Giro d'Italia scavalla e va oltre Alpe lo stanno dimostrando. Attenti al lupo, fermiamolo prima che sia troppo tardi. Questa volta il terribile quadrupede semina il panico alla frontiera tra Italia e Francia, dove oggi il Giro d'Italia sconfina con l'arrivo a Rosul. In questa strana Europa, dove anche le cose serie diventano commedia, si apre un nuovo caso dagli esiti imprevedibili. Ma cosa succede? Succede che la mascotte del Giro è Wolfie, un tenero peluche nato da una collaborazione col WWF. Tutto molto bello, ma ai francesi il pupazzo non piace. Per un semplice motivo, che a casa loro il lupo ha ancora questa brutta abitudine di fare il lupo, cioè attaccare le pecore e compagnia bella. E quindi il prefetto locale, spinto dai contadini, fa come al Brennero, imponendo il divieto d'ingresso al simpatico peluche. Insomma, ci dividiamo anche sul lupo. Noi lo vogliamo adottare sul tappeto del salotto, i francesi lo vogliono impagliato. Certo, anche sto povero lupo, scacciato proprio quando il Giro va sul colle dell'agnello. Dario Ceccarelli, Radio 24, il sole 24 ore. E così il nostro Dario Ceccarelli sul lupo. Noi adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro giro per l'Italia vero e proprio, e partiremo da Bergamo, dove oggi viene approvata un'ordinanza contro il gioco d'azzardo, che è una particolarità. Non solo si prevede un orario specifico nel quale non si può giocare, ma questo orario riguarda non solo le slot ma anche i gratta e vinci, le lotterie. E poi andremo agli Uffizi di Firenze, perché nei giorni scorsi il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, ha fatto diffondere via megafoni, via altoparlanti fuori dagli Uffizi un messaggio contro i bagarini, proprio con la sua voce. Ebbene, si è beccato una multa. Traffico. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato della storica visita di Obama a Hiroshima, abbiamo parlato della protesta di scuole, presidi e genitori per il mega ponte che riduce la didattica, abbiamo parlato di migranti con un sistema di accoglienza che è sempre più in difficoltà con gli arrivi delle ultime ore, di amministrative, della vigilia di Champions League, del Giro d'Italia. Adesso parliamo di gioco, e lo facciamo parlando di un'ordinanza del comune di Bergamo, un provvedimento del comune di Bergamo. Abbiamo in linea con noi il sindaco Giorgio Gori. Buongiorno sindaco e benvenuto. Buongiorno, buongiorno a voi. Un'ordinanza o un provvedimento che prevede in sostanza, sindaco, mi sembra di aver capito, delle fasce orarie nelle quali si può giocare. In realtà non è una novità questa, o meglio, delle fasce orarie nelle quali non si può giocare. La novità vera è che non riguarda solamente le slot, ma anche per esempio i gratta e vinci. Ho capito bene? Sì, in realtà non, l'ordinanza non c'è ancora. Ieri abbiamo approvato in giunta il regolamento che andrà in consiglio comunale il 6 di giugno, subito dopo ci sarà l'ordinanza del sindaco a regolamentare questo aspetto, che come diceva lei riguarda tutti i giochi, esclusi soltanto il gioco del lotto, il totocalcio, perché hanno modalità di fruizione completamente diverse. Non si corre il rischio di arrivare al gioco compulsivo e il bingo, che ha poca diffusione e caratteristiche di socialità. Tutti gli altri sono compresi, anche i gratta e vinci, perché alla base di questo regolamento c'è una serie di ricerche che abbiamo fatto, sia di tipo quantitativo che qualitativo, in collaborazione con l'ATS, che documentano una situazione di grave emergenza nel nostro territorio. In realtà il problema è nazionale, ma qui forse è ancora più vivo. Cioè lei in sostanza, mi scusi Gori, giusto per capire, quello che è risultato da queste ricerche è che i gratta e vinci in un certo senso funzionano un po' come le slot, nel senso che uno ne compra 10, gratta, poi vince con quello che ha guadagnato, compra altri gratta e vinci e via dicendo, per sì, la brutalizzo poi, insomma, un po'. La frequenza di vincita è più alta, e la distribuzione è infinitamente più capillare, per cui i gratilici sono un po' dappertutto, sono la cassa del supermercato, alle poste, dal fruttivendolo, apparentemente così innocui, però quando una persona con pensione minima acquista due gratevinci da 20 euro la settimana, ecco che la sua pensione alla fine del mese si è dimezzata, e questa cosa moltiplicata per il numero enorme di persone che giocano determina degli esiti molto negativi sul potere d'acquisto di queste famiglie, quindi sul risparmio. Noi abbiamo dati che ci dicono che in città di Bergamo la somma di quanto viene speso in giochi all'anno è di 2.500 euro a persona. Mediamente. È una cifra enorme. E soprattutto perché è una media, quindi vuol dire che... Certo, c'è un sacco di gente che non gioca, vuol dire che ce ne sono alcune che giocano molto di più. C'è una crescita esponenziale delle persone che ricorrono a servizi antidipendenze dell'ASL, correlato all'aumento dei numeri del gioco. Anche nel 2015 a Bergamo, a differenza che nella media nazionale, i giochi sono cresciuti come importo complessivo del 4,60%. Per darvi un'idea, nella provincia di Bergamo nel 2015 sono giocati 1 miliardo e 800 milioni di euro. Questi sono i numeri. Impressionante. Allora, mi scusi sindaco, un paio di precisazioni. Allora, gli orari, da quel che ho capito, sono in linea di massima abbastanza definiti, poi ovviamente saranno affidati all'ordinanza. Sono gli orari con cui cerchiamo in qualche modo di preservare la socialità di queste persone, sì. Perché le indagini qualitative documentano una serie che esistono, in cui ci sono genitori che dimenticano di andare a prendere i figli a scuola perché sono inchiodati alla macchinetta, genitori che li vanno a prendere e li portano al bar e li costringono a stare lì accanto mentre loro continuano a giocare, pensionati che non rientrano nelle loro case a pranzo perché stanno giocando. Allora, la mattina dalle 7.30 alle 9.30, quando sappiamo che anche molti minorenni giocano, nell'orario dalle 12 alle 14 e dalle 19 alle 21, diciamo, non si può giocare. Non si può giocare. È un argine, io non sono affatto, noi non siamo affatto contro il gioco legale, anzi pensiamo che sia un presidio contro l'illegalità e il fatto che la criminalità organizzata se ne appropri, ma bisogna mettere qualche argine perché giustamente i costi sociali sono troppo elevati. Sì, ho un'ultima domanda, sindaco, se riusciamo brevemente, i controlli, perché non è che avete un piccolo territorio voi. No, è un grande territorio, il Comune di Bergamo in realtà non grandissimo, ma certamente non sarà sufficiente la nostra polizia locale, i cui agenti pure hanno fatto dei corsi di formazione ad hoc. Quello su cui contiamo, visto che tra le cose prescritte dal regolamento c'è anche l'obbligo ad esporre in formati grandi, visibili a tutti, cartelli che per esempio dicano che il gioco è vietato ai minori, in quattro lingue, sia esposto l'autotest, che una sequenza molto breve di domande che però consentono a chiunque di capire se ha o non ha un problema di dipendenza dal gioco e così via. Queste cose consentono anche a chi non è un giocatore ma che entra nel bar o in tabaccheria nel momento in cui un minore sta giocando o acquista un gratto e vinci di poterlo segnalare e in qualche modo di aiutarci a rendere operativa questa disposizione. La ringrazio, grazie Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, e vedremo poi anche nei prossimi mesi se avrà efficacia tutto questo. Tra un attimo parleremo di Uffizi, però voglio restare un attimo sul tema dei giochi, perché la nostra Raffaella Calandra ha intervistato su questo il sottosegretario Baretta. Andrà in onda domani alle 21.30 all'interno del suo programma Storiacce, che propone tra l'altro la rimozione delle slot machine da bar e tabacchi e la riduzione, una riduzione del 30% per slot, sentiamolo. Si dovrebbe arrivare a un totale di 250.000 rispetto alle 400 circa attuali. Parte dal 1 gennaio 2017 fino al 2019, dobbiamo riuscire a fare questo passaggio. Diciamo la verità, negli ultimi anni si è un po' esagerato. L'altro tema è anche la localizzazione delle slot machine. La mia personale opinione, che è quella sulla quale sto muovendomi, è quella di una drastica riduzione persino quasi a togliere dai bar e dei tabacchi qualsiasi macchinetta, perché è anche più difficile controllare, per esempio, il divieto ai minori. Quindi la soluzione più seria è togliere le macchinette dai bar e dei tabacchi. Bisogna anche garantire un po' che il mercato ci sia. Allora, forse la strada migliore è quella di avere delle sale giochi fortemente specializzate. Buongiorno al direttore degli Uffizi, Eike Schmidt, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora, cosa è successo? Mentre un po' passata sotto traccia, no? In queste ore nelle quali Firenze è nelle cronache evidentemente per quell'enorme voragine che si è aperta sull'Arno e le inchieste che sono seguite, è successo che lei, Schmidt, ha fatto una sorta di annuncio che è stato diffuso dagli altoparlanti fuori dagli Uffizi, che diceva che cosa? Ma era una informazione su dove si comprano i biglietti, quali sono i prezzi ufficiali, cioè quelli che spesso i turisti che stanno arrivando sulla piazza imparano soltanto dopo aver comprato un biglietto a un prezzo esagerato da qualcuno che vende sul piazzale. Sì, poi, i bagarini per intenderci. I bagarini, no? Appunto, e poi succede più volte ogni giorno che i turisti arrivano, entrano poi nella prima sala dell'accoglienza del museo e si rendono conto dei prezzi veri, che sono, sì, molto più bassi. Certo. E poi si arrabbiano anche con i nostri ragazzi, eccetera. Certo. Quindi, sono delle situazioni... Quindi lei, mi scusi, ha fatto questo annuncio che veniva diffuso dagli altoparlanti. Beh, me ne fa un pezzo, mi scusi, glielo chiedo, siamo in radio, così facciamo capire ai nostri ascoltatori come sono. Effettivamente l'ho registrato, credo, 2 mesi fa. Ah, ok. Quindi non mi ricordo nemmeno... Quindi a memoria non se lo ricorda. Cioè, mi ricordo il contenuto, comunque... Sì. È un messaggio molto chiaro. Chiaro e obiettivo, sì, in cui do il benvenuto ai visitatori e gli metto un po' in guardia dai bagarini. Sì. Ecco, il punto, Schmidt, è che l'hanno multata per questo. Questo è vero, e stamani ho prontamente pagato la multa e credo che questo aspetto con questo è finito. Cioè, Io sono sempre in contatto molto stretto con il comune e quindi non c'è nessuna ragione per vedere un problema lì. Cioè, non si è praticamente aperta nessuna voragine tra Palazzo Vecchio e gli Uffizi. E lei, cioè, diciamo che c'è stato forse un eccesso di burocrazia, per così dire, no? Ma la cosa è, bisognava capire sia la normativa applicabile come anche la interpretazione. Cioè, ovviamente i miei amministrativi e i miei tecnici hanno avuto informazioni che non coincidevano con quello che aveva il comune, e quindi però questa cosa ora è finita. Ho parlato ieri con Dario Nardella, non c'è nessun problema tra noi due. Niente, tutto a posto, insomma. Mi dice una cosa. Tra di noi, cioè, ovviamente, sì, non sul piazzale. Non sul piazzale, evidentemente. Rimane. E bisogna attaccarlo insieme, cioè questa è la cosa molto importante. Giusto, molto pesantemente, siamo perfettamente d'accordo. Mi toglie un'ultima curiosità brevemente, ma come si trova lei che... è straniero di fronte a queste cose? Cioè, arriva e i suoi uffici amministrativi le dicono si può fare, poi dopo, non lo so, una settimana, un mese, 2 mesi si ritrova la multa. La lascia un po' perplesso. No, dopo 3 giorni, infatti. Cioè, 3 giorni soltanto, 3 giorni. Sì, perché quindi andato... grande efficienza su questo, sulle multe i comuni sono specializzati. Ma questo è un buon inizio. No, ma certamente c'è un aspetto ironico di tutto questo, ma d'altro canto credo che se tutti si applicano a collaborare insieme, cioè, fra alcuni anni ci sorridiamo tutti, cioè anche sì. Lì c'erano alcuni momenti dove, cioè, a parte il fatto che ho dovuto pagare 295 euro, ma tutto il resto era più per sorriderci sopra, insieme, chiaramente, ecco, sì, chiaramente, sì, sì, certo. La ringrazio, grazie a Deike Schmidt, direttore degli Uffizi, per essere stato con noi. Noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa nella seconda parte della trasmissione e ci troviamo per i mercati. Nella seconda parte della trasmissione avremo il sindaco, la sindaca di Sulzano, Paola Pezzotti. Siamo sempre nell'area del lago di Iseo, dove ci si sta preparando questa mega installazione di Cristo, dell'artista Cristo. E poi è appena arrivata una sentenza importante, il riconoscimento di due stepchild adoption da parte di due donne, adozione del figlio del partner, e parleremo con l'avvocato di queste due coppie di donne. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. I nostri titoli: la storica visita di Obama a Hiroshima, dice piangiamo per i caduti e lottiamo per un mondo senza bomba atomica. Migranti, il sistema di accoglienza in crisi, 4.000 arrivi solo nelle ultime ore, il Viminale ha scritto ai prefetti perché trovino nuovi posti. Amministrative, lo scontro si è spostato su Roma, Renzi sarà alla manifestazione di Giachetti, Raggi dice è scandaloso. La vigilia della finale di Champions League, a Milano si gioca al calcio al Castello Sforzesco, in altre zone della città, alla borsa. JP Morgan Asset Management vi presenta... Effetto giorno. E nel nostro giro per l'Italia ci spostiamo a Torino. Si impone assai semplicemente la tutela di una situazione di fatto. Così la Corte d'Appello di Torino ha motivato il via libera alla richiesta di stepchild adoption, ossia di adozione del figlio del partner, presentata da due coppie di donne. Abbiamo in linea l'avvocato Antonio Dionisio. Buongiorno avvocato, benvenuto. Buongiorno. Ed è l'avvocato, non ho capito se di entrambe le coppie di donne che hanno visto riconoscere, di entrambe le coppie di donne, insomma le tutelava entrambe lei. Ci racconta un po' qualche dettaglio brevemente di questa decisione del giudice, che è arrivata poco fa, tra l'altro. Sì, è proprio di questa mattina la pubblicazione e la comunicazione, ma sono situazioni molto chiare, pur nella loro anomalia, di due coppie di donne in cui una sola è madre biologica e l'altra persona che ha assistito, che vive con lei fin dalla nascita della bambina e quindi ha sempre di fatto fatto da madre, da seconda madre alla bambina in oggetto, chiede di poter essere ratificata anche per la legge e riconosciuta anche dalla legge come madre, e in entrambi i casi la Corte ha accolto questa richiesta dando prevalenza al dato di fatto, quindi come giustamente si accennava, sgomberando il campo da ogni questione ideologica o ideale per far prevalere la realtà. Ci sono dei bambini che hanno già due genitori di fatto, ma che purtroppo per la legge questo non è ancora riconosciuto e quindi sulla base... Avvocato, a me sembra che progressivamente la giurisprudenza, posto che vale e non vale nel nostro ordinamento, stia convergendo abbastanza su tutto questo, no? Sì, assolutamente. Anche se in primo grado era stata respinta la richiesta di stepchild per queste coppie. Esatto, difatti, quindi c'era stata un po' questa anomalia del primo grado che si era opposto, aveva respinto la domanda il Tribunale per i minorenni di Torino con una motivazione anche abbastanza severa e quindi si era posto in dissenso sia con il Tribunale di Roma e sia con la Corte d'Appello di Roma, che aveva già confermato in secondo grado la giurisprudenza del Tribunale per i minorenni di Roma che ha aperto la strada. Quindi possiamo dire che in questo modo anche la giurisprudenza torinese e piemontese si allinea a questo fronte che è in espansione, effettivamente, lo confermo. Quanto è durata la battaglia legale delle sue assistite? E la battaglia legale è iniziata nel settembre del 2014, quindi è presto detto, sono quasi due anni. Quasi due anni è andata sì. Avanti la cosa, ma voi avete assistito altre persone che... Noi abbiamo un terzo caso, ci risulta che siano solo tre i casi attualmente pendenti nella giurisdizione piemontese, e noi assistiamo anche il terzo caso, di cui aspettiamo ad ore la pubblicazione della sentenza, che dovrebbe essere in linea perché è stata decisa dal medesimo collegio, è solo diverso il giudice relatore, per cui sta impiegando un po' più di tempo per poter estendere la motivazione. Eccoci qua. Bene, dunque, io la ringrazio. Grazie all'avvocato Dionisio, Antonio Dionisio, per essere stato con noi. Vediamo se la regia ci riesce a caricare, visto che rimaniamo in zona dei tribunali, un servizio dedicato alla Procura di Milano, perché è in fase di scelta il procuratore generale, dovrà decidere il CSM a breve, che è l'inchiesta del nostro Daniele Biacchessi, che abbiamo come sempre ogni martedì e venerdì. Vediamo se ce l'abbiamo, siamo pronti? Sentiamola, via. Insieme a quella di Roma e di Palermo, la carica di procuratore della Repubblica di Milano è sempre stata decisiva nella storia dell'Italia contemporanea, perché da Milano sono state avviate alcune delle principali inchieste per corruzione, connubio tra politica, illegalità, criminalità organizzata. Da Milano è partita l'offensiva che va sotto il nome di Tangentopoli, si sono determinate le indagini su Silvio Berlusconi e proprio da quell'ufficio giudiziario ai tempi di Mani Pulite si sono mosse le critiche più severe alla classe politica sul piano dell'affermazione dei concetti di legalità, trasparenza e etica. Ebbene, il posto di procuratore della Repubblica di Milano è vacante da numerosi mesi, esattamente dallo scorso novembre, quando Edmondo Bruti Liberati se n'è andato. Così nel silenzio generale una procura che dovrebbe compiere indagini importanti su corruzione, illegalità e mafie di ogni risma presenti a Milano è rimasta senza una guida. La nomina potrebbe avvenire lunedì 30 maggio, ma permane lo scontro tra le tante correnti della magistratura. I nomi in campo sembrerebbero tre: Giovanni Melillo, Francesco Greco e Alberto Nobili. Non è sbagliato affermare che intorno alla nomina del nuovo numero uno di quella che fu la procura cura di Mani Pulite si stia giocando una partita molto ampia e delicata, dove gli interessi sono svariati e si incrociano i mal di pancia continui tra governo, politica e magistratura. Vi avevamo promesso un approfondimento su quello che si prepara sul Lago d'Iseo con l'installazione di Cristo. Dovevamo parlare col sindaco di Sulzano Paola Pezzotti, che ci è svanita nel nulla, e quindi da Iseo ci spostiamo a Pistoia per parlare invece di spettacolo, perché si apre da oggi fino a domenica la settima edizione dei Dialoghi sull'Uomo, festival di antropologia del contemporaneo. In scena questa sera, in apertura, Joelle Dix legge la novella degli scacchi di Stefan Zweig. Lo ha intervistato Adriana Fracchia. Immagino una partita in mezzo all'oceano durante una crociera fra un campione del mondo giovanissimo di scacchi e un curiosissimo, misterioso professore che ha imparato gli scacchi quando era prigioniero dei nazisti, ed è una specie di parabola fra due mondi che si scontrano in questo campo di gioco nei quali conta tantissimo l'intelligenza, la strategia, l'esperienza. Quindi è una piccola perla molto adatta per aprire i Dialoghi sull'Uomo, che quest'anno sono dedicati appunto al tema del gioco. Traffico, Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.